E poi per miglia e miglia soltanto vento. E le scie che strisciano appresso sull'acqua. È la sera nata morta, che volge al verde sporco. E poi per miglia e miglia soltanto vento. E le scie che strisciano appresso sull'acqua. È la sera nata morta, che volge al verde sporco.